Allora va molto il seguente argomento, no? Non bisogna consegnare il paese alla destra. Allora, così, se non vado errato, la sinistra si impegna a fare il traforo del Brennero, la TAV, le centrali nucleari, le spedizioni militari, le basi americane, gli interessi del Vaticano, gli interessi della Confindustria e una dura repressione di chi si ribella. Mi fermo qui, ma potrei anche essere più lungo e più dettagliante. Viene il sospetto che la destra a fare tutte queste cose forse non ce la farebbe.